is Basement 105. Si chiama Ghetto Gospel, è una new entry qua nel Basement di 105 ed è di Digital Astro insieme a Nerissima Serpre. Siccome è il momento take, ho deciso di chiamare e invitare qua ai microfoni del Basement proprio Digital Astro per conoscerlo. Pronto Astro? Bella, pronto. Quella, ciao, so che sei malato. Mettiamo subito in chiaro le cose. Puntualizziamo che non ho sempre questa voce. Benvenuto nel Basement, anche perché è la prima volta o una delle prime volte che passiamo Ghetto Gospel. Però già Ava mi parlava di te, mi diceva: guarda che Digital Astro è un alieno, okay. Tiralo in mezzo perché è uno che spacca. E quindi ho detto: vai, conosciamo. Bravo. La tua musica ci piace. Ti dicevo che oltre che Ghetto Gospel, io e Fabio eravamo indecisi se passare Tutto Passa o Preghiera per il Blocco. Però ce ne sono tante altre che racconta di te. Ma lascio a te un po' il raccontarti. Arrivi da Cireale, Catania, e sei del 2000. Da lì ti trasferisci a Salso Maggiore Terme, però ti volevo subito chiedere quando è che più o meno inizia la passione alla musica, quando ti avvicini poi alla musica? Mi avvicino alla musica, come penso tutti, sono 13-14 anni, inizio a scrivere le prime cose, però sono cose nuove, così arrivi a fare una cosa nuova. Ho provato a fare cose da solo, senza pubblicare niente all'inizio. A 16-17 ho cominciato a pubblicare le prime cose. Ho provato, ritentato, ho iniziato a venire su a Milano totalmente a caso. Vedevi Milano come una città? Mi imbucavo per conoscere gente. Sì, come New York. Certo. Cioè, venendo dalla provincia, Milano è New York. E mi è capitato di conoscere Sergio, che adesso è il mio producer. Voglio sottolineare questa cosa. Siamo nel 2017. Conosci Setturs? Leggo che è una delle figure più importanti del tuo cammino, perché sblocca questa parte introspettiva. Cos'è che è stato il change proprio dopo la conoscenza di Setturs? Il change è stato poter sperimentare con lui. Cioè, avevo questa apertura di poter sperimentare, fare cose. Abbiamo detto: proviamo ad essere un attimo più introspettivi nei testi. Leviamoci questo freno. Avere anche un produttore che costantemente stava con te a studiare sui vostri progetti, in effetti, sì, poi era una cosa super nuova. Super nuova, penso che anche 3 anni dopo, nel 2020, hai ricevuto interesse da diversi personaggi del nostro settore, però soprattutto da Gali, che addirittura poi nel gennaio 2021 ti ha fatto firmare per la sua Store Records. Com'è che è la situazione? Com'è stato anche lì? È un altro bel change che hai fatto. Sì, sì, sì. Infatti mi ha fatto strapiacere che sia riuscito a fare questa cosa con Gali. Capito? Per un ragazzo della mia età, Gali è stato tra i trascinatori della trap. Essendo cresciuto ad ascoltare quella roba lì, capito? Gali, Sfera, Pedro. Dall'altra parte, io da fuori vedo anche un bel chiudo che si, un cerchio che si chiude, perché Gali, avendo anche lui origini miste, ha preso sotto la sua etichetta colui che ha entrambi i genitori originali del Marocco, cioè Digital Astro. Quindi chiude anche un po' in cerchio di quella multietnia che avete un po' nel sangue. Molto figo questa cosa. Sono curioso appunto di vedere cosa combinerete anche sotto lo sguardo protettivo di Gali. Nel frattempo è uscito un primo EP, Vendetta, che vogliamo raccontare. Come dice il titolo, cioè, è rivalsa. Penso che si senta anche nelle tracce. L'argomento che caratterizza è questo. È pervenuto, capito, da un paesino da fuori, riuscire a fare questa cosa, cioè, per me è importante. È tipo un riuscire a farcela grazie anche alla musica, avere un obiettivo che è appunto riuscire a farcela e magari evitare anche altre situazioni un po' turbolente, un po' più turbolente rispetto a quella musicale. Sì, è meglio salvarsi con la musica che stare strano. Infatti, il prodotto si chiama Vendetta, è il primo EP di Digital Astro, che classe 2000 è arrivato da Catania ed è riuscito a raccontarsi perlomeno qua a 105, comunque stai riuscendo a raccontare quello che è tutto il tuo passato e il tuo presente. Io ti posso solo augurare in bocca al lupo, bro. A questo punto continua a raccontare la tua vita, se soprattutto la musica ti aiuta a migliorare quella che è la tua vita. Certo, grazie mille. Va buono, ci ascoltiamo il tuo take. Grazie che l'hai fatto, sei il secondo di in questa stagione che hai fatto il take. Quindi a sto punto, take di Digital Astro, che poi trovate anche sul profilo Instagram di Radio 105. Bella Astro, un abbraccio. Bella, bella, bro, bella. Bella Moco, bella Fabio B, Basement 105. Mi inventavo le vacanze quando tornavo a scuola. Mi ispiravo a qualche film che avevo visto d'estate. Andavo con mamma in albergo per non lasciarla sola. Vederla pulire i panni mi ha fatto odiare i turisti. Un italiano non si è mai vergognato del suo nome. Voglio cambiare le cose, non voglio una spiegazione. Finché non avrò un milione, sputerò sangue finché non sarò il migliore. Quante cose vorrei dirmi, ma non le capiresti mai. Non mai. Non è manco colpa tua, è che siamo diversi. Tuo padre ha macchinone, sono ancora sui mezzi. Ringrazio Dio per quello che amo. Mi chiedo perché non è più facile, più facile. Ora sono lucido, vedo il traguardo ma lì su, però so che ascoltarli ora è stupido. Le cose cambiano e gli stupirò. Le cose cambiano e manco te ne accorgi. Io non cambierò, sarò come oggi. Sarò come mi vedi, con più fame di ieri. Quante cose vorrei dirti ma non le capiresti. Le cose cambiano e manco te ne accorgi. Io non cambierò, sarò come oggi. Sarò come mi vedi, con più fame di ieri. Quante cose vorrei dirti ma non le capiresti. Basement 105.